Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutti e bentornati su Liberi Dentro ed Uradio. Oggi è giovedì 20 maggio. Io sono sempre Caterina alla conduzione di questo programma, ma qui con me c'è anche Antonella Cortese. Buongiorno Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Allora, dovete sapere che ci sono anche degli spazi, come per l'appunto il carcere, che possono diventare altro. E questa è l'esperienza di Bergamo Alta. Infatti leggo l'articolo, Bergamo Alta, un ex carcere, rinasce come spazio gratuito per giovani under 35 con progetti culturali e artistici. Perché l'ex carcere di Sant'Agata è diventato un bene comune, riconosciuto dal comune di Bergamo, che si trova proprio nel centro storico e per molti anni è stato lasciato in condizioni di abbandono in qualche modo, ma è stato rimesso di nuovo al centro di sperimentazioni di rigenerazione urbana. Oggi si sente tanto questa parola, rigenerazione urbana, tutte le attività green che rilanciano cose dismesse, case dismesse, istituti e innovazione sociale, diventando punto di riferimento per la socialità, in particolare giovane della società di Bergamo, no? E proprio per dare vita a questo spazio si è da poco chiusa la raccolta di adesioni per abitare l'ex carcere con progetti artistici e culturali, promuovendo un processo di costruzione di una cosiddetta hub, di un hub creativo, cioè uno spazio di sperimentazione e contaminazione artistica, innovazione sociale, scambio di competenze, imprenditorialità, specialmente giovanile. Questa è una bellissima iniziativa, perché il recupero di strutture di questo tipo è sempre molto importante, proprio perché poi vengono rigenerate e acquisiscono una nuova vita. Però ho una curiosità: come si sono create le sinergie sul territorio con i giovani under 35? È successo che il progetto Babele, che sta per Bari Bergamo Local Energy, ha finanziato l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, che ha aperto a sua volta una call, cioè un richiamo, diciamo, che si chiama Fatti Internare, tra virgolette, e prevedeva la possibilità di richiedere la partecipazione a tutti i giovani creativi, artisti under 35, che avessero voglia di partecipare, di entrare in questo spazio creativo. E hanno risposto a questa chiamata tante persone, singoli ragazzi oppure gruppi informali, enti del terzo settore, e ora partiranno le selezioni in base alle quali verranno scelti i migliori progetti a cui dare spazio all'interno di questo ex carcere. E inoltre gli under 35 vincitori del concorso quindi otterranno un proprio ufficio all'interno dello spazio, ma non solo, potranno utilizzare anche una sala prove, avere uno spazio comune per ritrovarsi, un'area e ristoro, e avranno anche il diritto di accedere a una area amministrativa. Quindi questa è una bella occasione per dare spazio sia creativo che collettivo ai giovani che operano nell'ambito artistico. Sì, mi sembra un'ottima idea davvero. Speriamo che questa iniziativa sia, diciamo, infettiva, nel senso che si contamini. Sì, e tra l'altro, siccome oggi è il 20 di maggio e domani è il 21, volevo ricordarvi che proprio domani ci sarà un webinar dove parliamo di un'altra esperienza, che è quella che vi tocca più da vicino, che ci tocca, che è proprio Liberi Dentro ed Uradio. Infatti è stato pubblicato il report della Regione Emilia-Romagna, che vi faccio vedere. E la comunicazione alle dal carcere nell'era del distanziamento sociale, Liberi Dentro, in cui si parla del nostro progetto radiofonico, televisivo e di coinvolgimento in qualche modo su una comunicazione che riguardi il carcere e la cittadinanza. Ed è anche il primo progetto in Italia nato per iniziative di cittadini e cittadine che operano come volontari, insegnanti, operatori all'interno del carcere Rocco D'Amato di Bologna. Se volete partecipare potete andare sul sito del Garante regionale dell'Emilia Romagna, dove trovate le informazioni e anche il link per poter accedere, e vi ricordo appunto il 21 maggio, domani dalle 14 fino alle 19. Ci saranno tantissimi ospiti, anche Marta Cartabia, la nostra ministra, neo ministra della giustizia, e ovviamente il nostro Ignazio De Francesco, che ha curato il volume stesso, e tantissime altre personalità, quindi seguitelo. Vi lancio una canzone, sempre il nostro Bob Marley con Get Up, Stand Up, un brano del 1973, famosissimo, ispirato e mosso da un viaggio fatto da Bob ad Haiti, e lui, vedendo insomma le condizioni disumane di vita degli abitanti, è stato ispirato per scrivere questa canzone, Get Up, Stand Up. Eccoci, bentornati sempre sul nostro programma Liberi Dentro Eduradio e ora con te, Antonella, parliamo di un tema molto delicato che fa anche un po' arrabbiare, quello del bracconaggio nei paesi africani. Sì, parliamo di questo argomento perché purtroppo la situazione è in peggioramento e il bracconaggio ha come epilogo la distruzione delle specie animali, semplicemente. Sembra una cosa molto banale, ma la naturale conseguenza è questa. E poi soprattutto perché nel periodo della pandemia il fenomeno del bracconaggio è aumentato terribilmente. La biodiversità è a rischio e chi si occupa di queste cose spesso purtroppo viene ucciso, come è successo a due giornalisti. In Burkina Faso proprio, Davide Beriain e Roberto Fraile, che ha riportato un po', diciamo, questo episodio ha riportato un po' l'attenzione su una zona dell'Africa che è quello del Sahel, cioè la fascia orizzontale che si estende dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso, in cui c'è molta biodiversità e in cui si sono fatte molte indagini e purtroppo questi due giornalisti hanno avuto la peggio proprio perché stavano realizzando un documentario sul bracconaggio, con l'aiuto tra l'altro di Rory Young, che è un esperto nella lotta a questo fenomeno, nato in Zambia con passaporto irlandese. Insomma, vi dicevo, la pandemia ha colpito anche il continente africano terribilmente, non ha fermato il bracconaggio, anzi in qualche modo addirittura lo ha favorito. Infatti sono stati uccisi tantissimi ranger da bracconieri o da miliziani nel parco di Virunga nella Repubblica Democratica del Congo, che tra l'altro ospita gli ultimi esemplari del gorilla di montagna. Mi colpisce questa cosa perché durante i mesi della pandemia spesso ci siamo raccontati, o comunque abbiamo sentito affermare, che l'assenza dell'uomo dovuta alle chiusure ha ritrasformato la natura in un paradiso per gli animali. Ma è veramente così? Beh, questo è nel nostro immaginario, perché le nostre città, Caterina, si sono un po' riempite di animali, cioè gli animali venivano dalle campagne e riuscivano a prendersi degli spazi che prima gli avevamo sottratto, ma in Africa non è purtroppo così. L'azzeramento del turismo consapevole soprattutto, perché chiaramente noi parliamo di un certo tipo di turismo, ha fatto crescere il fenomeno del bracconaggio semplicemente. I parchi protetti non sono più protetti perché i ranger che si occupano di tenere in sicurezza i parchi, quindi gli animali, non ci sono, non sono pagati. Per esempio, i parchi protetti dal Kenya allo Zimbabwe. Nello specifico hanno subito un grande colpo, sia dal punto di vista economico che da quello naturalistico. Sono migliaia comunque le zone strategiche in Africa per la biodiversità, è un patrimonio dell'umanità in realtà, non è un patrimonio solo africano, anche perché ci sono dei mammiferi che vivono solo lì. E la fonte economica principale per proteggere e gestire questi paradisi, queste zone che appartengono a tutti, provengono soprattutto dal turismo. E pensate che prima della pandemia il turismo generava 30 miliardi di dollari all'anno e dava lavoro a oltre 3 milioni di persone. Poi chiaramente ci sono stati dei finanziamenti internazionali per sostenere vari progetti di conservazione, però si stima che addirittura nei prossimi 2 anni potrebbe esserci una caduta, diciamo, di investimento del 75%. Un vero disastro. E in effetti il turismo in Africa, bisogna dirlo, il turismo consapevole, fatto bene, non fa male a nessuno in realtà, se addirittura aiuta a mantenere in piedi certe realtà. Allora, che dire di queste popolazioni che, africane che vivono di turismo? Non staranno certamente passando un bel momento. No, stanno passando un pessimo momento perché si stima che questa sia una recessione che non si vedeva da 25 anni, quindi veramente una cosa tragica. E, tra l'altro non pensiamo soltanto agli animali e alle zone in cui vivono, ma anche a tutto l'indotto che crea questo tipo di turismo, alle persone che venivano impiegate nella loro cura e che vivevano nei sobborghi di questi parchi. E, gli animali praticamente ormai muoiono anche perché vengono uccisi dalla popolazione locale perché non ha cibo e quindi si sono trovati, per dire, nelle tagliole che sicuramente non hanno messo i bracconieri perché i bracconieri usano le armi. E poi di solito uccidono animali economicamente più interessanti. Nelle tagliole, vi dicevo, sono stati trovati antilopi, gazzelli, facoceri, zebre o addirittura il leone Rafiki, che è una razza protetta ed è uno degli animali iconici del Mara North Conservancy. E quindi diciamo è una battaglia molto dura questa. La conservazione dell'ambiente è una battaglia dell'uomo che lo protegge contro l'uomo che lo minaccia. Che canzone possiamo lanciare? Allora, io rimarrei in Africa e vi farei ascoltare Oumou Sangaré con Mali Nialé. È una cantante molto importante perché si è battuta moltissimo per i diritti civili, i diritti delle donne, contro i matrimoni combinati e la poligamia. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Siamo sempre con il nostro Marcello Mattè, il cappellano del carcere della Dozza. Bentrovati e buongiorno. Oggi festeggiamo perché stiamo per parlare appunto della Pentecoste, che celebreremo il 23 di maggio e affrontiamo la lettura del Vangelo di Giovanni, dal capitolo 15 fino al capitolo 16, appunto dicevo festa di Pentecoste, che significa letteralmente cinquantesimo giorno, perché cade 50 giorni dopo, compreso il giorno di Pasqua, e si celebra per l'appunto il dono dello Spirito Santo su Maria, la madre di Gesù, e sui discepoli. Ma allora io ti chiedo, siccome c'è una citazione appunto di Gesù che dice che lascia ai discepoli il Paraclito, ti chiedo cosa significa Paraclito, questa parola un po' difficile, con il quale poi Gesù si riferisce in realtà poi allo Spirito Santo. Paraclito è un termine appunto abbastanza tecnico, faceva riferimento a quella figura dell'ordinamento giudiziario del tempo, quando all'accusato poteva affiancarsi una figura notevole e stimata della comunità, che si metteva al suo fianco, poneva la mano sulla spalla dell'accusato e diceva: garantisco io per lui. Ecco, il Paraclito è questa forma di avvocatura che lo Spirito Santo fa nei nostri confronti, ma il termine attinge all'espressione consolare. Infatti lo Spirito Santo è detto anche il consolatore, però la consolazione che lo Spirito Santo ci dà non è la pacca sulle spalle, non è un alleviamento puramente a parole della nostra sofferenza, ma è togliere alla radice le ragioni della nostra sofferenza. Se posso, faccio riferimento a un episodio del secolo scorso, quando ancora la Casa della Carità trascorreva un paio dei mesi estivi nell'abbazia di Monteveglio. Una sera ero andato su per trovare gli amici della Casa della Carità e poi mi sono fermato a dormire lì con loro, perché la mattina dopo avrei avuto il mio turno di alzata. E durante la notte io dormivo nella stanza dove dormiva anche Ivan, un simpatico down che ha lasciato un ricordo incancellabile tra quelli che sono vicini alla Casa della Carità. In questa durante la notte è scoppiato il temporale e Ivan aveva molto paura dei tuoni. Io ho sentito che cominciava a lamentarsi, a piagnucolare. Allora io mi sono alzato, mi sono fatto vicino a lui e l'ho abbracciato, gli ho detto: non ti preoccupare, ci sono qua io con te, non ti succede niente, non devi avere paura. Dopo un po' il temporale sembrava terminato, io sono tornato a letto, ma sai che ci sono quelle code di temporali, ha ripreso un po' a tuonare, e allora Ivan ha cominciato a chiamare: Marcello, Marcello. Io pensavo che volesse che andassi di nuovo vicino a lui. Allora mi sono alzato, sono andato vicino a lui, lui mi ha abbracciato e mi ha detto: non devi avere paura, ci sono qua io con te. Ma mi faceva venire in mente questo episodio, il fatto che quello che io potevo fare per Ivan e quello che Ivan poteva fare per me era semplicemente di aiutarci a superare la paura, ma quello che può fare lo Spirito Santo è cancellare il temporale, farlo cessare del tutto, fare in modo che non ci sia più la radice, la ragione di quello che ci spaventa. Questo è il termine consolatore secondo il significato evangelico. Infatti poi a metà di questo nostro brano del Vangelo, congedandosi dai discepoli, Gesù dice: molte cose ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Di che cosa non sono capaci i discepoli di portare il peso? Non sono ancora capaci di portare il peso di tutta la verità del Vangelo. Il Vangelo che attinge, allude, invita a questa carità che arriva a donare la propria vita, i discepoli non sono ancora pronti, mentre Gesù fa questo discorso, a donare la propria vita. Però sarà lo Spirito Santo che darà loro, rivelerà loro le ragioni e darà loro le motivazioni interiori per arrivare a vivere questa carità che porta il peso del dono della vita. I discepoli non sono ancora pronti a questo, ma lo Spirito Santo li renderà capaci di portare il peso di questa grande verità evangelica. L'amore arriva a donare la vita. Marcello, se ti chiedo di lanciare una canzone, a cosa pensi? Guarda, avevo pensato a Fiorella Mannoia, chissà da dove arriva una canzone, un po' perché allude a questo tema dell'ispirazione, ma anche perché c'è dentro un'espressione che forse dopo riprenderemo, Questa sera non voglio mentire, solo guardarmi dentro per cambiare. E chissà se questi giorni chiusi avranno un prato per volare fuori. Io non trovo mai una spiegazione, ma forse è proprio dai tuoi occhi che nasce una canzone. Voglio guardarmi dentro per trovare questa verità, la verità che sono capace di carità. Chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono scritte dal vento. Chissà da dove arriva il mare, se parte qui o questo è già il finale. E come fanno le onde a mantenere la stessa rabbia senza mai volare. Io un'idea ce l'ho e penso si avvicini a te. Chissà da dove parte un mio pensiero, se da chi sono oppure da chi ero. Ho chiesto a queste stelle un dono, farsi più avanti e superare il cielo. Chissà quante domande ho fatto, senza mai far capire cosa ho detto. Perché la vita è una commedia al buio, dove per ridere serve del trucco. E questa sera non voglio mentire, rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro. Stiamo parlando sempre del Vangelo di Giovanni, che cadrà la domenica 23 di maggio, il giorno di Pentecoste, dicevamo il 50° giorno dopo la Pasqua in cui viene donato lo Spirito Santo. E allora io ti chiedo sempre, Marcello, perché l'Evangelista Giovanni insiste nel chiamare questo Spirito Santo Spirito della Verità? Certamente non va inteso in senso dogmatico, come se volesse rivelarci lo Spirito Santo delle verità di contenuto, ma la verità che fa lo Spirito Santo è quella di liberarci dalle maschere, liberare Dio anzitutto dalle maschere che noi gli abbiamo messo attorno, che siamo tentati di mettergli addosso, e rivelarci che il volto di Dio è soltanto amore. Dio è Padre, Dio è amore, Dio dona la sua vita e la dona tutta per noi. E dall'altra parte fare verità anche dentro di noi, aiutarci a capire che al di là dei nostri sospetti, al di là dei nostri dubbi, al di là delle nostre tentazioni, noi siamo davvero figli di Dio, siamo amati profondamente e siamo capaci di grande amore. Credo che questa sia la verità più forte, più bella e nello stesso tempo anche più laboriosa e più difficile da accettare, che Dio è nient'altro che amore e che noi non siamo altro che capaci di amare. Grazie Marcello, e allora una canzone ora la lancio io, anche un po' sollecitata dal racconto che hai fatto su Ivan, e lanciamo Tiziano Ferro, Il regalo più grande, perché il regalo in questa canzone è la presenza, come la presenza che tu hai dato a questa persona e che lui ha dato a te, quindi per tutti. Grazie, buona giornata. Buona giornata e grazie a voi. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno, o mai accettato, e di quelli che apri e poi piangi, che sei contenta e non fingi, in questo giorno di metà settembre. Dedicherò il regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che e non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire, però so nel cuore la tua presenza è sempre arrivo e mai partenza. Regalo mio più grande, regalo mio più grande, vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso, donarmelo adesso, e di quelli che non so aprire di fronte ad altra gente, perché il regalo più grande è solo nostro per sempre. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante. E dopo le parole di Marcello Mattei, il cappellano del carcere di Bologna, la casa circondariale Rocco D'Amato, ci salutiamo, ci ridiamo appuntamento con le rubriche. Oggi parliamo di Alle ore 17 su Teletricolore, canale 636, mentre tra poco su Lepida TV alle ore 13.30 abbiamo il teatro con i Cantieri Meticci. E se volete scriverci potete sempre farlo, redazione liberidentro@gmail.com, oppure una posta con l'indirizzo indirizzato a Liberi Dentro e Duradio, Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 240 136 Bologna. Ci rivediamo domani, sempre qui, sempre su Liberi Dentro. Grazie a Pasquale Pitaniello, sempre alla regia per il montaggio di queste puntate, e ad Antonella Cortese, sempre qui con me in redazione. Buona giornata a tutti e a tutte. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.